Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e non dite poi che non vi avevamo avvisati. L'appuntamento, se ricordate, era per le 8 di sabato sera scorso al Bernabéu per Real Barça. Meno 4 in classifica il Real dopo una grande e lunga rimonta, 17 vittorie e un pareggio nelle ultime 18 partite, sto parlando sempre del Real Madrid, pubblico al Bernabéu che vi lascio immaginare. Un'occasione e mezza, una in particolare fallita da Messi subito nelle fasi iniziali della partita, poi un cross, siamo intorno al decimo minuto, un cross di Sergio Ramos, testa di Higuaín, gol. Real a meno 1. A quel punto, Fabio Tavelli? A quel punto è partito lo tsunami, onestamente, calcistico più bello che si possa vedere, perché a quel punto, buon pomeriggio intanto a te e a tutti gli ascoltatori, a quel punto credo che insomma, il Barcellona abbia dato il meglio di sé, pungolato dal fatto di essere andato sotto, costretto a uscire dal guscio definitivamente, e penso abbia impartito una lezione durissima a alcuni commentatori, ma di fede madridista o quantomeno di osservanza madridista, l'hanno descritta come la peggiore disfatta della storia del Real Madrid. Adesso poi sui libri di storia c'è sempre spazio per gli aggiornamenti. In ogni caso è stata un'autentica lezione di football, un calcio meraviglioso, ed è stato un 6-2 che ha fatto sì che Piqué, appunto sul 6-2, non solo prendesse un po' in giro Casillas e Cannavaro, ma scrivesse anche la tripla cifra, cioè il dato dei 100 gol, che è un'altra cosa eccezionale. 100 gol in 34 partite è qualcosa di pazzesco. 100 gol in campionato in 34 partite. Poi ritorniamo sulla bellezza e poi su quella specie di, non dico referendum, ma insomma qualcosa del genere che ho provato a lanciare ieri per dire. Per invitare gli ascoltatori a intervenire oggi, a scrivere i loro sms, a intervenire in diretta, a scrivere via mail, e tante sono arrivate, poi ve le leggerò, su qual è stata a ricordo loro, a memoria loro, la partita più bella di una squadra di club a cui abbiano assistito. 100 gol del Barcellona in campionato, 34 giornate, sono le stesse giocate in Italia. Allora tu mi pare ti sia tolto una curiosità di vedere quali sono gli altri attacchi più brillanti in giro per l'Europa. Io ho provato a guardare soltanto quali fossero gli score delle squadre in testa alla classifica, quindi dato immediatamente evidente come si vada dai 58 gol del Marsiglia ai 60 dell'Inter e si salga fino al massimo a 64 o a 66 se consideriamo anche il Wolfsburg, che però ha qualche giornata in meno perché ne ha 30, o il Manchester United. È chiaro che questo è un dato che va combinato con i gol subiti e con il tipo di campionato che uno si trova a disputare, però 100 gol con la possibilità di battere il record del Real Madrid di Toshak a 107, considerando che di fatto Eto'o, Messi e Henry insieme hanno segnato tutti i gol dell'Inter, ed è un dato oggettivamente pazzesco. Ripeto, fatta la tara, perché di tutte queste enumerazioni fantasmagoriche va sempre considerato che difese hai contro, che spazi ti si aprono, il fatto che la terza squadra della Liga quest'anno è a 25 punti dalla prima, cioè un distacco pazzesco, così come pazzesco è il distacco tra la prima e l'ultima, ed è un distacco enorme rispetto anche ai distacchi che ci sono negli altri campionati. Detto questo, bisogna semplicemente capire quanto sia merito del Barcellona e quanto sia demerito delle avversarie. Se poi oltretutto allarghiamo l'analisi ai gol della Real Madrid, troviamo che il Real Madrid ha segnato 79 gol in questa stagione e sono sempre 19 più dell'Inter. Io prendo il paragone con il campionato italiano perché certo, viene più facile, ed è insomma un dato impressionante. Chi magari preferisce lo 0-0 come partita perfetta certamente non si entusiasmerà a questo. Chi invece pensa che un 6-6 sia meglio di un 1-1 penserà diametralmente in maniera opposta. Resta il fatto che la bellezza del gioco espresso dal Barcellona non è quantificabile, e se mi permetti non è quantificabile nemmeno, se non in un dato, come dire, numericamente poco contestabile, la bellezza delle giocate di un giocatore che non ha segnato sabato, che è Xavi, che secondo me è un giocatore di una dimensione mostruosa in questo momento, ma ha fatto 4 assist, di cui 2 francamente memorabili, almeno per me, e insomma, questo non ha segnato, non entra numericamente nello score dei marcatori, però è uno che giustamente su molti giornali il giorno dopo ha preso 9. Ecco, dare 9 a uno che non ha segnato in un 6-2 è già un segnale. E d'altra parte è un segnale che perlomeno all'estero un po' di competenza c'è ancora, perché mi è rimasta una sequenza di Xavi che è quella sul 2-1. Riportiamoci all'inizio, no? E riportiamoci anche al coefficiente di difficoltà che ha questa partita, al fatto che la giochi fuori casa e che dallo 0-1 risali al 2-1 nel giro di pochi minuti. A quel punto io credo che una squadra umana rifiata ci pensa un attimo, insomma, rifiata per l'appunto. E invece Xavi è andato a pressare alto nella tre quarti avversaria, ha strappato palla a un avversario, l'ha messa comodamente a Messi, che ha segnato il primo dei suoi due gol. Stiamo parlando di qualcosa di rarissimo da vedere. Scrive un ascoltatore, Andrea Dolci, dice: guardi, sabato sera si sono viste cose che noi umani non riusciamo a immaginare. Iniesta combinare i piedi di Pirlo col dinamismo di Cambiasso, e Tosco a razzare a destra e a sinistra senza che nessuno riuscisse a fargli un baffo, Henry a fondare colpi come fosse il Cassius Clay dei tempi d'oro, e Messi a ridicolizzare non solo gli avversari ma anche le leggi della fisica. Ecco, questa è una sintesi che arriva da un ascoltatore. Sandro da Unile domanda, fa notare quanto gioco si sia visto quella sera, che numero bassissimo di falli, tutta la corsa e le poche scenate. Noi, conclude, guarderemo vincere altri club europei per molto tempo ancora. Così a occhio penso proprio di sì. Qualcuno ha parlato, appunto, e lo accennavi all'inizio, anche andando a sfogliare, no? le statistiche, ripercorrendo la storia, ha parlato, è andato a ripescare i risultati così clamorosi nei tempi andati. Per trovare 6 gol del Barcellona sul campo al Bernabéu bisogna risalire al 47 addirittura. Vinsero 6-3 quella volta. Poi c'era stato un 5-0 ai tempi del grande Barcellona di Cruyff, che anche quello non va certamente dimenticato, Cruyff giocatore ancora, poi nell'estivo uno niente male da allenatore, ma insomma nel 74 quando andò lì ci fu una derrota, come la chiamano loro, un massacro mica da ridere per il Real. Il Real però, che a sua volta appunto ha fatto l'inventario delle sconfitte storiche, soprattutto quelle subite sul suo campo, il Real non è sparito dal campo, è stato tolto dagli avversari. Secondo me c'è una bella differenza. La differenza è sostanziale, perché dicevi bene tu, intanto il Real ha cominciato la partita come meglio non potesse, cioè mettendo pressione. Il Barcellona era la squadra delle due che stava, come dire, flettendo di più in classifica, nel senso che aveva leggermente rallentato, e il Real Madrid era arrivato prima di una curva, alla fine di un rettilineo. Il Real Madrid era in piena accelerazione e insomma, diciamo che il Barcellona aveva qualche cavallo in meno. E quindi essere in vantaggio con quel gol di Higuain, nel quale c'è anche una componente di errore da parte della difesa del Barça, perché Higuain salta troppo solo, anzi salta completamente solo in mezzo all'area, e Sergio Ramos riesce a fare un cross abbastanza comodo, in quel momento sinceramente in molti credo abbiamo pensato che la riga fosse riaperta, e quello lo dicevano i numeri, ma che Real Madrid, da squadra che comunque in questo periodo probabilmente è più cattiva rispetto al Barcellona, che Real Madrid potesse mettere alle corde il Barcellona. Ed è stato veramente il contrario, perché da quel momento il Barcellona ha cominciato ad alzare il ritmo, a tenere la palla ancora più bassa, quasi sottoterra in alcuni momenti, ha avuto la bravura di trovare il gol subito, di doppiare il colpo e di continuare ad attaccare, perché veramente in quel momento Casillas veniva bombardato, lo ha detto bene Riccardo Trevisani in telecronaca, è un bombardamento quello che sta Casillas avvenendo. Ha preso 6 gol perché ha fatto almeno 3-4 parate decisive, e perché Messi in particolare ha sprecato una parola grossa, ma insomma non ha sfruttato un paio di occasioni non difficili, e un altro paio di palloni sono fischiati di vicini. Cioè, è finita 6-2, ma se erano 12 non c'era nulla da dire. Sì, devo dire che anche il Real ha avuto una grande palla gol su un quasi autogol di Dani Alves, e lì Valdés è stato molto bravo. Il Real ha giocato la partita che poteva e che doveva giocare. Il Real è una squadra a pezzi dal punto di vista complessivo, perché mancava Guti, mancava Van Nistelrooy, mancavano un sacco di altri giocatori importanti, ha avuto tanti infortuni. Il Real Madrid ha avuto Pepe squalificato per la follia di qualche settimana fa, e vedere Metzelder e Cannavaro difensori centrali contro Henry e Toe Messi è stato sinceramente troppo, credo. Sì. Che in questo momento quella coppia di difensori centrali non valga una coppia di giocatori di una squadra di medio-bassa classifica in Serie A. No, e certo. non voglio essere ingeneroso né irrispettoso nei confronti di nessuno, ma in questo momento Cannavaro e Metzelder non valgono la coppia di difensori centrali del Chievo, secondo me. Poi è vero che Cannavaro, cioè è vero che non troverai poi tantomeno in Italia il Barcellona tutte le settimane, no, ma insomma le visite mediche di Cannavaro ieri alla Juventus, due giorni dopo questa derrota, questa disfatta appunto al Bernabeu contro il Barça, insomma un minimo di perplessità possono anche destarla. Il Real poi aveva ancora riaperto la partita a inizio ripresa, posso proprio a confermare che prima di arrendersi ce ne ha messo qualche pedata, il solito Heinz in particolare ha provato anche a tirarla, perché insomma si prova tutto, no, in quelle condizioni. La gara Heinz ce l'ha sempre. Certo. E poi hanno alzato le mani come è giusto che sia davanti a una squadra di questa levatura. Veramente uno spettacolo di cui si fa fatica a trovare dei termini di paragone. Qualcuno, non so, Roberto Corti scrive: Real Madrid-Milan 1-1 con un gol di testa di Van Basten, con una torsione stratosferica, lo ricordo, magnifico. Quella sera il Milan mise, credo sia la volta che mise Butragueño e Sanchez in fuorigioco più di 20 volte, 23-24 volte. Mi è rimasto questo dato chissà dove, no? In mezzo ai neuroni impazziti. E al ritorno ci fu poi quel 5-0 per il Milan, col gol, aperto dal gol di Ancelotti, o meglio dalla papera di buio, che per carità è stata certamente una di quelle partite da ricordare. Poi molti altri hanno scritto di altre e un po' alla volta le citeremo. Quando però leggo sul display Gabriele Trieste dice Real Manchester nel 98 3-4, no, questa va bene. Maurizio da Parma dice che avrebbe tanto voluto vedere il derby Inter Milan del 49 finito 6-5 per l'Inter, lo so, di quello non esistono immagini, ma se leggo memorabile il 2-1 del Manchester United in finale rimonta sul Bayern negli ultimi due minuti, no. Dicono caro Giovanni da San Zeno, no, non ci siamo. Quella è una partita straordinario per il finale emozionante, ma se lei avesse visto giocare a calcio l'altra sera a Barcellona non azzarderebbe mai un paragone di questo genere, perché se non si gioca così in paradiso si gioca in una maniera molto molto simile. Fabio, credo che così possiamo aver chiuso il primo capitolo della... Ma se vuoi una parola su Guardiola, dipende dal traffico. Parola su Guardiola, benissimo. Dipende dai tuoi impegni con il traffico. Il traffico tra un minutino circa, però credo che l'ex capo della cantera valga un po' più di un minutino. Dica. Guarda, io ho un ricordo di Guardiola che era quando lui ebbe una squalifica in Italia per Nandrolone. Lui si presentò davanti ai microfoni e disse: signori, qui c'è una macchina che dice che io ho assunto Nandrolone, qui davanti a voi c'è un uomo che dice che io non ho mai assunto Nandrolone. Lui andò fino in fondo, nel 2007 fu riconosciuto innocente, non sfruttò la prescrizione della condanna, volle andare fino in fondo e fu riconosciuto da una sentenza passata in giudicato che lui quella colpa non ce l'ha avuta. Questo per dirvi chi è Pep Guardiola. Pep Guardiola è diventato allenatore del Barcellona dopo aver allenato la squadra B del Barcellona, e potrebbe essere, magari Gigi un giorno potremmo riparlarne, il fatto che magari anche in Italia potrebbe essere una buona idea avere le squadre B, non tanto le squadre satellite, perché il Real e il Barcellona con la loro squadra B fanno crescere molti giocatori. Certo. E in questo caso anche un allenatore, perché Guardiola è alla sua prima vera esperienza da capo allenatore. Lui è stato parte del Dream Team di Johan Cruyff e forse il termine di paragone più fresco viene con quella squadra. Sì. Guardiola ha costruito Xavi, ha aiutato Xavi a esplodere in quella posizione e soprattutto ha dato fiducia a giocatori della cantera, perché c'erano in campo 5 giocatori costruiti nel vivaio, ce n'erano 2 in panchina, e insomma è la dimostrazione che si può diventare grandi allenatori rapidamente. Lui lo è diventato, ha iniziato la Liga perdendo, già dopo 2 giornate il Barcellona sembrava in difficoltà, massima fiducia in lui, questa è una squadra che gioca onestamente, l'hai detto tu, se c'è un paradiso del calcio, quando attacca il Barcellona, quello è il paradiso del calcio. 38 anni a Pep Guardiola. Io ero da un mio amico interista, scrive Alessandro da Livorno, ma vista la prima mezz'ora è stato facile convincerlo a rimanere su quel canale e a non cambiare per Inter-Lazio. Ricordo che Inter-Lazio partiva alle 20.30, mezz'ora dopo l'inizio appunto di Real Barcellona. Tutto questo però, il calcio a livello che così come si dimenticano in fretta le sconfitte, si devono dimenticare in fretta anche le vittorie, anche i trionfi, perché domani sera il Barça ricomincia a giocarsi tutto in Coppa Campioni ripartendo dallo 0-0 e stavolta in trasferta in casa del Chelsea. Mi aggancio alla domanda di un ascoltatore. Fabio, quindi sulla base di tutto quello che abbiamo raccontato, ma soprattutto di quello che è successo al Bernabeu, ha avuto ragione il Chelsea a fare catenaccio? Domanda Renato da Vittorio Veneto. Io gli rispondo di sì. Sono cose diverse, perché il Real Madrid doveva vincere, il Chelsea poteva non perdere, e quindi sì, sono presupposti completamente diversi. È vero quello che comunque dici tu e sostieni tu, dando ragione all'ascoltatore, cioè avversari così li puoi fermare in un solo modo: se giochi a viso aperto, e in Spagna giocano molto più a viso aperto che in altre parti del mondo, ti esponi certamente allargando gli spazi alla loro arma migliore. E quindi certamente Hiddink dalla sua parte ha fatto benissimo a impostare quella partita e ha evitato che il Barcellona potesse esprimersi al massimo. Il Barcellona comunque sempre si creerà 5-6 palle gol perché gli viene normale crearsele. Se lo trovi in una serata nella quale i giocatori sono meno cinici e in realtà non lo sono mai tantissimo, poi portare a casa la pelle. Il Chelsea l'ha fatto e il Chelsea adesso è favorito nei confronti del Barcellona, perché in uno stadio piccolo, perché Stamford Bridge è molto piccolo rispetto al Camp Nou, che è grande rispetto a tutti gli altri, ma Stamford Bridge è particolarmente piccolo, in un'atmosfera particolare, con il Chelsea che la butterà molto sulla battaglia, e soprattutto senza Puyol, senza Marquez, io credo che il Chelsea sia favorito, e credo che ci possa stare anche un'eliminazione del Barcellona. Non me lo auguro, perché mi piacerebbe molto vedere una finale Barcellona-Manchester United, però la Coppa è veramente diversa dal campionato. Ripeto, il Real Madrid non poteva accontentarsi di non perdere, perché sarebbe rimasto a meno 4 e di fatto non sarebbe riuscito a recuperare la Liga. Doveva provare a vincere, ha provato ad attaccare, e quando attacchi e vai a rete, se l'altro ha un bel passante ti passa. Certo, fermo restando che se il Barça esce domani sera, certamente una mezza delusione c'è, ma si tratta poi sempre di un'eliminazione in semifinale, quindi sì, non particolarmente precoce, a fronte di una Liga vinta, e mi pare della possibilità di vincere ancora anche la Coppa del Re di Spagna. La Coppa del Re in finale, certo. Quindi la stagione rimarrebbe comunque. Beh, Gigi, però io conosco latitudini al mondo dove, se Guardiola non dovesse vincere la Champions League e la Coppa del Re, verrebbe definito un mezzo perdente. Sì, insomma, sì. Non dimentichiamolo. Latitudini non lontanissime dalla nostra. No, certo. Passiamo all'altra. Mentre ricordo agli ascoltatori poi che vogliono intervenire, l'800 24 00 24, direi tra poco, tra non molto, e in ogni caso nella seconda parte della trasmissione, e comincio a leggere e a vedere ricordati i 4-0 del Milan in finale di Coppa Campioni, quello contro lo Steaua a Barcellona, e io direi anche di più, quello proprio contro il Barcellona invece ad Atene nel 94. Però Gigi, se mi permetti, poi io naturalmente ascolterò molto volentieri dalla mia auto tutto il resto del programma, perché mi interessa molto sapere l'opinione e i ricordi dei tuoi ascoltatori. Devo dirti che un discrimine importante è anche quello di giudicare la bellezza di una partita dal fatto che entrambe abbiano giocato molto bene, perché giustamente, certo, chi cita Milan Steaua cita Milan fantastico, però gli avversari fecero pochissimo, proprio perché il Milan era troppo forte. Però, ma proprio pochissimo, sì, ricordo direi abbastanza bene. Esatto, e anche altre volte, mentre io credo che il Real Madrid, seppure oggettivamente inferiore come resa, abbia almeno certamente fatto più della Steaua di quella sera lì, più del Barcellona ad Atene quella sera di quel gol pazzesco di Savicevic, e quindi complessivamente la analizzerei proprio dal fatto dei due avversari. Ma cioè, anche una vittoria di Federer o di Nadal in 3 set può essere bellissima, ma se l'altro non fa mai punto, magari è una bellezza non completa, ecco. Certo, stasera cominciamo con Arsenal-Manchester. In questo caso mi pare che il Manchester sia favorito, ma che un margine comunque, se non altro per vedere una bella partita, ci sia. Ma io credo che l'Arsenal parta tutt'altro che battuto, parte certamente non favorito perché dovrà vincere 2-0 e il Manchester United è una squadra che raramente si fa battere 2-0, però dall'espressione, come dire, vagamente ottimista di Wenger ieri in conferenza stampa al recupero di Robin Van Persie, ecco, Van Persie è un giocatore che secondo me può mettere e parecchio in difficoltà la difesa del Manchester United, che recupera Rio Ferdinand, quindi è molto importante questo per Ferguson per contrastare Adebayor, che i Gunners sperano sia un po' più incisivo rispetto alle precedenti apparizioni. Ripeto, il Manchester United è favorito perché è normale che sia così, ma non ha un margine così ampio per poter amministrare, quindi credo che l'Arsenal cercherà di metterla subito sulla massima velocità possibile. L'Arsenal assomiglia al Barcellona, è un Barcellona che magari ha una marcia in meno, però è una squadra che gli somiglia molto, e soprattutto se Walcott e Nasri riusciranno ad essere molto d'aiuto a Van Persie e a De Bayor, e soprattutto se giocheranno tutti e quattro insieme, io non sono sicurissimo di questo, sono certo che giocherà Walcott, ecco che l'Arsenal potrebbe allungare la partita, magari, chi lo sa, accontentarsi di un 1-0 e di provare ad andare avanti ai supplementari. Ripeto, sto ipotizzando scenari magari anche che non si verificheranno, però davvero mi aspetto una partita ad alta tensione, più spettacolare certamente della gara d'andata e credo anche meno squilibrata. Poi invece il Manchester United vince 3-0 e tutti a casa, però sulla carta però credo che l'Arsenal la farà sudare parecchio. Ma non capite, scrive Alex Fabri da Monza insieme a Saluti Vivissimi, Hiddink ha fatto catenaccio per salvare l'incasso del ritorno. È ovvio che è una battuta, perché l'incasso in una partita di ritorno di Coppa Chelsea-Barcellona è garantito comunque. Ha fatto catenaccio per portare a casa la pelle e Alex Fabri è il primo a condividere. Il Real ha perso anche con la Juve, scrive Lorenzo, ed è tutto dire, ma tanto avete sempre ragione voi. Abbiamo sempre ragione noi, Lorenzo, perché il Real ha perso con la Juve a novembre, dopodiché ha inanellato, ha perso con la Juve, cioè è stato eliminato, no, dal girone del... ma da allora, insomma, mi pare che Real abbia fatto, lo dicevo prima, 17 vittorie e un pareggio, no, in campionato. Sì, in realtà 17 vittorie, un pareggio e una sconfitta, perché dobbiamo contabilizzare anche la sconfitta di Barcellona. Dell'andata di Barcellona, dell'andata. Sì. Però sì, ricordiamo che il Real Madrid è uscito dal Liverpool pesantemente, certamente. Ha ragione l'ascoltatore, perché non è... Quando ogni tanto si fanno i paragoni, mica hai giocato nel Real Madrid, perché ci viene in mente il Real Madrid. Ma certo, devono sapere tutti che il Real Madrid è il Real Madrid anche nelle stagioni scarse, quindi grande merito alla Juventus, che però l'ha affrontato in una fase della stagione nella quale la Juventus però, era appunto più forte. Lorenzo si riferisce alla Juventus di oggi e al Real di allora, mentre invece il paragone va fatto in una maniera un pochino diversa. Non mi augurerei oggi per la Juventus un Real Juve in queste condizioni. No, oggi no. Abbiamo 2-3 minuti per chiudere con due brevi capitoli. Uno è la Francia, dove il duello si è ricreato ma è cambiato, e dove tra l'altro è notizia di pochi minuti fa che Didier Deschamps, ex giocatore e allenatore della Juventus, ha firmato per il Marsiglia e lo ha annunciato lo stesso club francese. Deschamps ha firmato per 2 anni e sostituirà Gerez. Il Marsiglia è proprio una delle due che si stanno giocando il titolo, Fabio. Sì, perché dall'altra parte c'è il Bordeaux ed è uno scenario finalmente entusiasmante. Il Lione ha perso contro il Valenciennes nello scorso fine settimana e quindi non solo ha abdicato di fatto compiutamente, ma anche rischia seriamente di non fare la prossima Champions League, quindi credo che passerà un periodo di vacche magre, non voglio dire di purga il Lione, però certamente 7 titoli consecutivi sono un qualcosa di straordinario. Il fatto di non essere mai riusciti ad andare troppo avanti in Champions League è stato penalizzante. Credo che Benzema vada a questo punto pesantemente sul mercato e quindi Barcellona e o Manchester United cercheranno di contenderselo. È un bene che il campionato francese abbia vissuto e stia vivendo una stagione del genere, perché perché credo che la cosa peggiore che ci sia è un campionato dove sai già all'inizio chi vincerà. Noi certo. In Italia qualcosa ne sappiamo, sia in passato che nel presente, però insomma 7 sono onestamente una tassa troppo alta da pagare. Ultimo brevissimo capitolo, e chiedo scusa a Maurizio che è già in linea da Caserta e che troverà spazio subito dopo l'intervallo, perché mi pare interessante. Dobbiamo essere brevi, ma come breve comincio a temere sarà la carriera di Van Basten allenatore, perché dopo aver fatto male, diciamo pure molto male, alla guida dell'Olanda, mi pare che sia andato anche peggio quest'anno nella sua prima avventura all'Ajax. Guarda, Van Basten è riuscito a tenere Van Nistelrooy in panchina ai mondiali del 2006 e già questo potrebbe essere una sì. cosa pesante, e riesce a non portarlo in Champions League in un campionato dove insomma la vince la Z Alkmaar e il Twente arriva secondo, insomma sinceramente penso che parlino i risultati. Devo dire che del grande trio del Milan le esperienze di allenatori, insomma siamo in flessione, perché Rijkaard non ha una panchina dopo aver comunque avuto un grande Barcellona e aver vinto la Champions League. Gullit è un po' disperso, era stato assunto dai Galaxy con la qualifica di sexy allenatore. È un peccato, perché comunque sono stati tutti e tre dei giocatori fantastici. Credo che solo Rijkaard abbia un po' di futuro in questa professione. D'accordo con te, grazie allora Ministro degli Esteri, ciao Fabio. Vi ascolto, buona giornata a tutti. Chiudiamo il collegamento con Fabio Tavelli. Qualche notizia di giornata: intanto la squalifica a Ballardini, allenatore del Palermo, per una giornata, e sempre per una giornata gli squalificati di Serie A. Oggi il comunicato del giudice sportivo in anticipo: Bellini e Doni dell'Atalanta, Ferrari e Motta del Genoa, Campagnaro della Sampdoria, Ogbon e Sereni del Torino, Pinzi del Chievo, Ibrahimovic, Ledesma della Lazio, Melberg e Nedved della Juventus, Mingazzini e Mutarelli del Bologna, Morimoto, Catania e Rise Roma. Mano abbastanza leggera, direi, del giudice sportivo, anzi mano leggera nel rapporto dell'arbitro di Genova nei confronti, direi, di genoani e sampdoriani. Un incontro, un faccia a faccia di Ranieri stamane con Blanc di un'ora negli uffici della Juventus. Al termine nessun commento. Secondo indiscrezioni, a Ranieri è stata confermata la fiducia almeno fino a domenica col Milan, quindi non ci sarà, non dovrebbe esserci, così dice l'agenzia, un traghettatore in settimana. Potrebbe esserci nelle ultime tre giornate in caso di un crollo a San Siro. La notizia migliore di giornata, vi dicevo, ve la anticipavo prima, si riferisce a un episodio di fair play avvenuto in un campionato minore. Il protagonista è Francesco Bigon, 25 anni, nipote d'arte di Albertino Bigon, ex capitano del Milan. È successo domenica scorsa in terza categoria, la partita era USMA Armistizio, 34esimo del secondo tempo, 1-1, quando Bigon, attaccante dell'USMA, arriva la palla buona in area, ma il portiere è appena finito a terra, lui può tirare direttamente in porta che è vuota, ma l'avversario sta urlando di dolore e per una botta alla spalla Bigon non ci pensa un attimo e mette il pallone fuori a lato. Segnare sarebbe stata un'ingiustizia, ha detto poi, ho fatto l'unica cosa che mi sembrava giusta. Ed è una cosa giusta davvero, e che gli vale questa, con grande piacere, questa citazione. Maurizio ha chiamato da Caserta, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, io sono tifoso del Milan e le dico una cosa che può sembrare strana: io sono preoccupato per queste ultime giornate di campionato del Milan, e le spiego perché. Che non vorrei che, come è successo già nel 2007 dopo la vittoria della Coppa dei Campioni con Liverpool ad Atene, la dirigenza del Milan dimentichi i tanti problemi che il Milan ha palesato in questi anni e nell'ultimo anno. E come se queste vittorie d'incanto togliessero qualche anno dei giocatori o risolvessero i problemi tattici e le contraddizioni tattiche che hanno caratterizzato la stagione del Milan. Questa è una preoccupazione che ho seriamente, perché che non mi pare infondata, detto tra noi. Non mi pare conforta affatto. E poi un'altra considerazione, il suo giudizio è quella su Ronaldinho. Io non sono mai stato entusiasta dell'acquisto di Ronaldinho, anzi temevo, e come è successo, che è un giocatore assolutamente inutile almeno per il Milan, e Ancelotti lo sta confermando. E poi del resto con le grandi squadre come il Barcellona e Real Madrid affari non si fanno, già ci hanno, se non sbaglio, propinato Rivaldo, cioè noi effetti abbiamo mandato un bel pacchetto di soldi a Barcellona, non ne avevano bisogno, gli abbiamo tolto un problema e ce lo siamo messo in casa noi. Certo Maurizio, se vuole la controprova guardi come sta giocando il Barcellona, liberato da quel freno a mano che aveva nelle due ultime stagioni, che non era il Ronaldinho dei tempi d'oro, intendiamoci, ma era un Ronaldinho in palese declino. Guardi cosa ci ha guadagnato il Milan e guardi cosa ci ha guadagnato il Barcellona, credo che sia la prova del 9. Per la partita la partita più divertente e più spettacolare, Fede d'Alessandria vota Milan-Liverpool a Istanbul e la definisce shakespeariana, cioè i 10 minuti più devastanti della storia del Liverpool calati a rovinare i 110 più belli del Milan di Ancelotti. Questa è una bella etichetta. Gennaro in linea da Trapani, buongiorno. Buongiorno dottor Caranzini, lei è un giornalista con la G maiuscola. Solo lei può dare queste soluzioni a noi tifosi napoletani. Dai, che c'era anche lei la G di Gennaro, su. Grazie. Ma che è successo a questo Napoli, dottor Caranzini? Come che è successo? E che gli era successo prima? Adesso il Napoli è. E che gli era successo prima? Che viveva al di sopra delle proprie risorse, secondo me. E poi un'altra considerazione, dottor Caranzini, ma Donadone è da Napoli? Ma chi lo può dire se Donadoni è da Napoli o non è da Napoli? Io ho visto che ho visto una mossa, ammesso che poi riescano a realizzarla, ho letto di una mossa intelligente, perché qualcuno finalmente si è accorto che gioca in Italia un playmaker che ha già 30 anni, ma che è anche un signor giocatore, si chiama Daniele Conti. Gioca nel Cagliari, è il segreto del Cagliari da un bel po', e mi pare che mi pare se ne sia accorto il Napoli, stia cercando di prenderlo, ma mi pare anche che il Cagliari non lo voglia lasciare andare. Poi se non si arrabbia, Gennaro, le dico anche che se però Conti dal Cagliari, Daniele Conti, dovesse andare al Napoli, tornerebbe indietro dal punto di vista della qualità, perché al momento il Cagliari sta giocando meglio del Napoli ed è pure discretamente più avanti in classifica. Real Madrid-Ajax, vota Fausto Filipponi. Real Madrid-Ajax 0-2 del 95, con un Ajax di Van Gaal che nei primi 20 minuti prese due pali, si vide annullati due gol, questo ricostruisce Fausto, e poi vinse ugualmente 2-0, e stiamo sempre parlando del campo del Real, del Bernabeu. A proposito di Ajax, ecco, finora il messaggio, tra i tantissimi, ripeto, perché poi cercherò di leggerne più che posso, ma il messaggio migliore sull'argomento di oggi l'ha mandato Claudio Patrizio da Pordenone, che non solo ricorda la partita, ma mi ha mandato anche il tabellino, e scrive: ecco il tabellino della miglior partita che abbia mai visto giocata da una squadra di calcio, prima di quella di sabato sera. Dopo un primo tempo di demolizione sistematica, la perfezione del calcio si scatenò nella ripresa. Olympic Stadio di Amsterdam, 7 marzo 73, Ajax Bayern Monaco 4-0, e ci sono i gol di Ian Muren, Ahn di nuovo e Cruyff a metterci la firma finale. Stiamo parlando di un 4-0. Ecco, questo mi sembra un paragone molto ma molto azzeccato, perché quella era la grande Ajax di Cruyff, di Rep, di Neskens, di Muren, di Kaiser, di Ahn, di Kroll, ma di fronte c'era il Bayern di Monaco, e sto leggendo in questa formazione, grazie al tabellino che mi ha mandato Claudio, sto leggendo i nomi di Maier in porta, di Beckenbauer, di Paul Breitner, grande regista, di Jönes, di Gerd Müller, e quindi un 4-0 di quella... schiantare quel Bayern voleva veramente dire essere di una categoria superiore, come era oggettivamente quell'Ajax storico dei primi anni 70. Giuliano in linea da Perugia, buongiorno. Ah, grazie, buongiorno. Volevo dirle che io sono un tifoso milanista, la partita più bella per un tifoso credo sia stata, per me perlomeno, la partita quella a Manchester nel 69, Manchester-Milan, quando Rocco prima di andare a Manchester disse: sfido qualsiasi squadra nel mondo a fare due gol al Milan. Poi vinse la Coppa dei Campioni contro l'Ajax 4-1, poi vinse la Coppa Intercontinentale. Sì. Cioè il Barcellona deve dimostrare domani, perché poi c'è anche l'abbinamento, la stessa proporzione tra Messi e Rivera, pallone d'oro, deve dimostrare di arrivare fino in fondo, perché altrimenti la partita Real Madrid-Barcellona è bella, c'è molto da godersi come sportivo, ma credo che come tifoso se non c'è il risultato finale, poi di arrivare a conquistare la Coppa dei Campioni. No, non c'entra nulla, Giuliano, abbiamo detto la prima, la Coppa dei Campioni è un'altra manifestazione. Quella partita di sabato era decisiva per il campionato e tornando a 7 punti di vantaggio il Barcellona l'ha già vinto. Poi lei ha premesso da tifoso, io ricordo quel Manchester Milan perché lo vidi anch'io e fu una partita affascinante per come il Milan seppe resistere all'assalto del Manchester United, che aveva un attacco formidabile perché giocavano gente come Best, Bobby Charlton, Dennis Law, Kidd, insomma fu un'impresa epica quella del Milan, ma vediamo di non bestemmiare perché quella fu una partita esclusivamente difensiva con un contropiede. L'altra sera il Barcellona ha dato lezione di calcio, sicché lei l'ha premesso da tifoso, perfetto, da tifoso ci sta questo ed altro. Roma-Lazio 5-1 con i 4 gol di Montella e il pallonetto di Totti a Peruzzi, vota per esempio Mino da Bergamo. Nicola Magnezzi ricorda un Juventus-Real Madrid 3-1 con un Nedved stratosferico di qualche anno fa, che però, se non ricordo male, si fece ammonire all'ultimo minuto e saltò poi la finale contro il Milan. Tutte partite da ricordare, per carità, poi ve ne citerò altre ancora ricordate dagli ascoltatori, ma insomma, giocare a calcio come il Barça l'altra sera è un po' diverso che rintanarsi in difesa compatti intorno a Malatrasi a Rosato, con tutto rispetto per l'impresa, ripeto. Gianni, provincia di Brescia, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ascolti, sarò brevissimo. Volevo dire solamente una cosa, che trovo molto stucchevole il suo voler continuamente parlare male di Ronaldinho, visto che comunque le partite che io ho visto giocare al Milan sono state all'altezza. L'unica cosa è che probabilmente non gli è stata data abbastanza fiducia. Da milanista mi auguro, con tutti i ringraziamenti per Ancelotti, che la dirigenza pensi di cambiare allenatore, anche perché io vorrei rivedere, ripeto, Ronaldinho l'anno prossimo, poter fare una stagione, visto che non lo trovo assolutamente una figurina da scartare. La ringrazio e buona giornata. Grazie a lei, Gianni. Sono in molti ad augurarsi che l'anno prossimo Ronaldinho venga confermato e che ci sia Beckham da una parte e Ronaldinho dall'altra, infatti, ma sono gli avversari del Milan in genere. Poi lei è l'eccezione che conferma la regola. Beh, di storia oggi ne stiamo già ripassando un bel po'. Questo non toglie che sia il momento della rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 5 maggio 1901. A Genova, il Milan Cricket and Football Club conquista il primo scudetto della sua storia, battendo nella finalissima il favorito Genoa, vincitore delle precedenti 4 edizioni del torneo. I rossoneri infliggono alla squadra di casa un umiliante 3-0, trascinati dall'inglese Herbert Kilpin, capitano e allenatore, autore di una tripletta. Nel primo Milan scudettato, la predominanza britannica in campo era netta. Solo 5 dei 13 giocatori schierati nelle 3 gare di campionato erano italiani. Però sto leggendo i messaggi perché ci sono di interessanti e di esilaranti. Qualcuno ricorda un Milan-Juve 1-6 di 10 anni fa, con Biere Zidane nella Juve, si firma Massimo. Ho 34 anni, scrive Andrea Faccio, sono juventino abbastanza passionale. La più bella partita mai vista è Juventus Argentinos Juniors, la finale dell'Intercontinentale 85, con quell'immagine di Platini sdraiato a terra dopo il più bel gol di tutti i tempi. Beh, adesso non esageriamo, dopo un gol meraviglioso annullato. È vero, quell'immagine fece il giro del mondo ed è rimasta proprio nell'iconografia della storia del calcio, quel Platini sdraiato alla maniera di Paolina Bonaparte dopo un gol, giustamente ricordo l'ascoltatore, annullato in maniera abbastanza incomprensibile. Ma ci sono molte citazioni colte, non solo quella di quell'Ajax-Bayern 4-0 di tanti anni fa, che finora mi pare del 73, che finora mi pare sinceramente la citazione migliore che ho letto. Ce n'è una interessante, la finale di Coppa Coppe, questa la manda Luca Ferrato, Coppa Coppe dell'86 a Lione, in cui la Dinamo Kiev di Lobanovskij schiantò l'Atletico Madrid. Mi sembrarono quella serie sovietici di un altro pianeta, giocarono a una velocità doppia rispetto agli avversari e in quel caso forse non fu un abuso parlare di calcio totale. E poi aggiunge Zavarov, Bielanov, Demianenko, Blocking e tutti gli altri giocarono quella serie in maniera spettacolare, aggressiva, veloce, mostrando anche un'ottima tecnica. Devo dire che quel giocare a una velocità doppia e in quel caso forse non fu un abuso mi aveva fatto pensare a un'altra conclusione, perché allora si parlò, insomma, di quella Dinamo Kiev e poi della nazionale russa di Lubanovskij, si parlò ogni tanto in termini di insomma, di qualche sospetto a proposito di preparazione di corsa. Aldo in linea da Siena, buondì. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, io da buon tifoso milanista mi ricordo un derby, un Inter-Milan finito 0-2 con gol di Gullit e di Virdis, il Milan di Sacchi contro l'Inter di Trapattoni, e il giorno dopo, guardando lo score sul giornale, riportava 29 tiri in porta del Milan contro neanche uno dell'Inter, 0. E poi quello 0-6 Milan-Inter, che insomma, che, come diceva prima il precedente ascoltatore, per il tifoso è il massimo, ecco. Insomma, anche noi, voglio dire, ci sono tante partite giocate a altissimi livelli, non solo il Barcellona gioca come in paradiso. No. Più Milan-Manchester United del 2007, ecco. Ma l'ha vista lei Real Barça? Come, scusi? Lei l'ha vista Real Barcellona? L'ho vista, è uno spettacolo con gli occhi, incollato al televisore. solo quello, perché così è una curiosità. Filippo da Catania, un altro di buona memoria, dice: è passato ormai mezzo secolo, per la verità ne sono passati 60 di anni, ma ricordo un Juventus-Milan 1-7 del 1950, per l'appunto, credo fosse la stagione 49-50, fu la grande giornata di Nordahl e fu la volta che Carlo Parola, stopper della Juventus e della Nazionale, ma insomma grandissimo difensore, per un po' rimase aggrappato a Nordahl, cioè cercando proprio di trattenerlo, ma questo si liberava e andava a far gol, e a un certo punto perse la testa e gli tirò una pedata nel sedere. E quel campionato, che fu vinto poi dalla Juventus, finì. Quel campionato fu vinto dalla Juventus, ma quella partita a Torino finì 7-1 per il Milan. Hamid ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, io volevo dire, per via della partita Real Barça, non lo so se avete notato che dopo il 3-1, il 3-2, penso il 4-2, il Barça continuava a giocare fino alla fine, senza, quando cade per terra qualche giocatore, si fermano tutti per fermare la palla, per far entrare il medico, per fare. È un gioco continuo, senza falle, senza niente. Certo. E dopo si parlava del fair play, non lo so se ha notato Chelsea-Barcellona, quando è entrato Bellezzi, che giocava nel Barça, cosa sì. Ha fatto il pubblico? Ha applaudito da quando hanno detto che c'è il scambio, che entra Bellezzi, hanno applaudito fino alla fine per Bellezzi. No, non, cioè, hanno fischiato. Nonostante fosse un ex, perché è vero, Bellezzi giocava nel Barcellona e adesso invece è entrato nel Chelsea giocando a Barcellona quella partita. Lo so, stiamo sempre parlando di altri pianeti, caro Hamid, e leggendo il suo nome, Hamid, con l'H davanti e arrivando alla telefonata da Verona, immagino insomma che lei apprezzi in maniera particolare, no? Episodi di questo genere, non faccio fatica a crederlo. La saluto con molto affetto. Flavio Suardi nel frattempo precisa, avendo espulciato gli annuari, che Parola fu espulso al 42esimo di quel storico Juventus-Milan 1-7 giocato il 5 febbraio del 50, che rappresentò, nonostante quella disfatta, l'ottavo scudetto della storia della Juventus. L'ascoltatore di Verona mi ha fatto venire in mente una delle mail più belle ricevute, firmata Stefano Perale, dice di aver ascoltato questo programma addirittura dalla Cina per un lungo periodo, dove era per lavoro, e adesso dice di ricordare tra la partita più spettacolare mai vista fu un Udinese-Verona 3-5 del campionato 84-85, cioè quello in cui il Verona e i Bagnoli vinsero scudetto. Ora è ovvio che c'è tifo in questa dichiarazione di voto, c'è suggestione, ma è vero anche che l'Udinese chiuse quel primo tempo sul 3-0 e il Verona nel secondo tempo, con Brigale Elkjær scatenati, ribaltò fino al 5-3 finale. Massimiliano in linea da Brescia ancora, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sono un tifoso del Napoli, vado un po' fuori dal tema della giornata delle partite più belle, anche se poi magari alla fine qualcosa da dire anch'io ce l'ho. No, mi chiedevo riguardo al Napoli, appunto, forse lei mi può aiutare o può chiarire il punto. Io io ricordo 2 anni fa che la coppia De Laurentiis Marino all'arrivo in Serie A dissero entro 5 anni noi vogliamo stabilizzarci in zona Champions League tra le prime 4 squadre in Italia, e 2 anni sono passati, ci avviciniamo al terzo e questi comprano Datolo, vogliono comprare, hanno comprato Dennis, cioè mi sembra che o l'obiettivo non è più quello, e io forse mi sono perso quando hanno cambiato obiettivo, ma credo che così non ci arriviamo mai. Massimiliano, però sa com'è, che il piano sia triennale, quinquennale, decennale o che sia dall'oggi per il domani, i piani per vincere li fanno tutti, e poi ogni tanto si svegliano magari un pochino sudati, no? Come capita un po' a tutti noi quando sogniamo a occhi aperti. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani e Giornale Radio.